incontra mai quella che ama, sarà destino, fatalità. Nessuno incontra mai quella che sogna, è un'altra cosa la realtà. Ti è forse passata vicino, ma dov'è, ma dov'è? O ancora l'aspetti, ma invano, non verrà, non verrà. Nessuno incontra mai quella che ama, sarà destino, fatalità. Il cuore non sa mai quello che vuole, è solo questa la realtà. È un'illusione la felicità. Mai quella che ama, sarà destino, fatalità. Il cuore non sa mai quello che vuole, è solo questa la verità. È un'illusione la felicità. È un'illusione la felicità.